alta voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarr. 12ª puntata. Leggevo e rileggevo i canti di Leopardi che mi erano stati regalati da un giovane studente che ci aveva seguito per il latino durante gli anni della scuola media, perché mia madre temeva che non riuscissimo a tenere il passo. Questo ragazzo, molto più vecchio di me, ormai un giovinotto quando ero dodicenne, mi scrisse per anni lunghissime lettere che io gettavo nella stufa. Aveva per me una fedele ammirazione, ma io, che pure tanto desideravo essere ammirata, ne sentivo un grande disagio, perché, come sempre, anche il solo sospetto che qualcuno non contraccambiato si innamorasse di me mi dava terrore e imbarazzo, quasi mi trovassi davanti a un incesto. L'italiano fu dunque l'esperanto nel quale mi accinsi a scrivere. Quel primo dramma fu storico, tal quale quelli che si recitavano il 17 febbraio, tal quale i drammi di Schiller. Si svolgeva nella Spagna dell'Inquisizione, tra protestanti e cattolici. C'era molto dialogo, tutti erano assai spiritosi, persino gli sbirri, i protestanti un pochino più dei cattolici. Nel frattempo avevo incominciato ad andare al cinema ogni domenica pomeriggio e la mia passione per lo spettacolo si era alimentata in modo definitivo. Il cinema non soltanto lasciava i suoi depositi, ma sembrava rimescolare anche il fondo delle mie fantasie e portare alla luce correlazioni e immagini che vi erano sepolte. Dava movimento al mio mondo fantastico, gli apriva strade, tagli inaspettati, riferimenti obliqui ai quali sinora non avevo pensato. Terminato il dramma, mi venne dunque in mente un film di storia valdese. Ero spinta anche da uno stimolo polemico verso quell'isola di cui odiavo le ristrettezze e meschinità. Volevo litigare un poco con i padri, rispondere, farli scendere dal loro monumento. D'altra parte mi stimolava la perfezione della loro storia, perfezione in cui una mia esigenza, che non mi curavo di riconoscere, pareva rispecchiarsi. Il mio progetto era nato dalla lettura di un testo della Società di Studi Valdesi sul glorioso rimpatrio. Vi avevo tra l'altro trovato il nome di due vittime del 1686. Si chiamavano Madeleine e Catherine Coisson, come le sorelle del nonno. Questa eco, rinnovellata al saluto del cugino Ingrogino, aveva di certo avuto la sua parte nella mia ispirazione. Il film avrebbe dovuto essere un western in cui, per finire, i buoni la vincono sui cattivi, ma rimase nelle poche annotazioni di allora e quando a 21 anni lasciai le valli non ci pensai più, finché una sera, 30 anni dopo, mi ritornò inopinatamente alla memoria durante una cena sul Po con amici in cui si venne a parlare di valdesi. Mentre raccontavo degli antenati che carponi, tenendosi l'un l'altro per il fondo delle brache, sfuggivano di notte all'accerchiamento nemico sulla Balsiglia e imprecavano sussurrando contro il giovane cuoco che si era lasciato sfuggire il pentolone rimbalzato di roccia in roccia tra i bivacchi addormentati dei francesi, mi rendevo conto di non avere dimenticato nulla. Quasi il dio Barbetto, saltato giù inavvertitamente dalla Val d'Angrogna, si fosse acquattato nel mio animo a fermentare come il vino nelle botti. Ogni immagine era ancora lì, fresca, tutta intera, pensata appena ieri. Non ero più ritornata a Torre Pellice, se non per brevi periodi, subito dopo il mio matrimonio e poi per visite fortuite. La casa, divisa tra mia madre e mio zio, era rimasta disabitata nella parte toccata a mia madre. Il prato aveva perso alcuni peri e meli, il grande ciliegio vicino al cancello, ce n'era uno più piccolo, poco più in là, e il fico, sul quale leggevo, immaginando di essere sulla tolda di un veliero e che l'erba sotto di me fosse l'oceano ondoso. Tutto intorno avevano costruito case e poco più in là del muro di cinta del prato scorreva la rumorosa strada di circonvallazione dove una volta si stendevano i prati fino al pellice. Non avevo del resto mai ripensato, se non assai di rado e su richiami ben precisi, alla mia adolescenza e alla mia giovinezza. La mia infanzia, al contrario, divenuta storia e, come mi sembrava, ben staccata ormai da me, aveva continuato a seguirmi mentre avevo figli e li allevavo. I tempi successivi, nel loro disordinato accavallarsi, li avevo respinti come un ammasso confuso di cui riuscivo appena a isolare la data del mio matrimonio, le nascite dei figli, i traslochi, neppure gli anni in cui avevo insegnato in questa o in quell'altra scuola. Tutte le volte che dovevo fare documenti mi toccava ricominciare da capo a contare e controllare. La mia ottima memoria serviva soltanto la pagina scritta, l'immagine vista e quella inventata. Quando mi capitava di rileggere il mio diario oppure le lettere a mia madre che ero riuscita a recuperare, mi pareva di scorgere ammiccamenti mafiosi al di sopra del mio io adolescente, come se due complici si confrontassero tra le mie righe. Ciascuno sapeva dell'altro qualcosa che avrebbe potuto metterlo in imbarazzo e ciascuno taceva per proprio tornaconto. Può darsi che ci fosse in me la sensazione che avvenimenti, felicità e infelicità commentate, annotate, stessero in vero nei limiti dell'inessenziale, che l'essenziale si sarebbe dovuto rivelare in seguito. Era questo il segreto su cui ammiccavano i due complici? Ricordo la prima volta che mi ero detta sono felice. Avevo 17 anni e correvo giù per il prato. Era maggio, oppure il principio di luglio. L'erba o era ancora corta o era già stata tagliata. E a un tratto, per la prima volta, mi colmò il futuro. Stava per ritornare da Roma Aldo, oggi si direbbe il mio ragazzo, ma allora non c'era nome per designare ad alta voce l'innamorato. L'estate mi aspettava, lunga, interminabile. Nel giardino della nonna baciavo talora di nascosto le rose nel loro grembo morbido e profumato. Ma sia la felicità che l'infelicità non erano che un graffio su una superficie liscia. Nulla in realtà penetrava sino nell'intimo dell'ameba che essa ricopriva. Gli avvenimenti si schiacciavano contro, venivano assorbiti, trasformati, digeriti e lasciavano l'informe interiorità estendersi e ritirarsi secondo regole e bisogni suoi. Dei tempi della guerra ricordo le giornate d'autunno a Torre, la sera con i cani che abbaiavano per le campagne buie e la nebbia che sapeva delle stufe accese nelle case. Oppure le chiarissime giornate di marzo, senza ombre nel giardino, e in fondo alla valle il cielo, mosso insieme dal sole e dal vento al di sopra delle montagne. In tutto il mio diario ci sono soltanto due date che si riferiscono agli avvenimenti di quegli anni. Forse il disagio che provo a rileggerlo, la riluttanza a ricordare, stanno proprio in quei limiti della mia memoria, in questo essersi dissolto nell'attesa della realtà ogni sentimento che non fosse il sentimento di me. Stavo ferma sulla soglia di me stessa. Mi sconvolgevano davvero, fino in fondo, solo l'ira e la pietà, ambedue incongrui pseudopodi dell'ameba che dicevo sopra. Provavo una vigile ma labile pietà, avara come la simpatia che nutrivo per me e alimentata proprio dal mio sentirmi inferiore, una pietà verso chiunque fosse per qualsiasi motivo beffato e perseguitato dagli altri, dai forti. Di rado osavo manifestare la mia pietà. E così, verso il giovane supplente di lettere, cattolico, nipote del vescovo di Pinerolo, chiamato a insegnare nella media, in mancanza di meglio, da noi, al liceo ginnasio di Torre Pellice, magro, pallido, con le palpebre un po' arrossate. Un mattino aveva chiesto a una mia compagna, una larga e robusta contadina di San Giovanni, che già allora diceva di voler diventare ostetrica, a che cosa le facesse pensare la Madonna di Dresda effigiata in foto sulla nostra antologia. E lei, alzatasi tranquilla, con voce sonora e limpida, aveva risposto: a un idolo. Nel tuono di risate seguito a questa risposta, risate che potevano sembrare indirizzate all'ingenua contadina, ma che invece erano rivolte a lui, il papista, che aveva creduto di poter provocare, ma era stato sparato, mi era parso di scorgere, dietro le palpebre arrossate, due lacrime. Come avrei voluto trovare una risposta consolatrice e avere il coraggio di darla. Però non solo la Madonna di Dresda non mi faceva pensare a nulla, ma insieme alla pietà per il nipote del vescovo di Pinerolo provavo un po' di schifo per lui, così brutto, così magro e pallido. Quelli per i quali provavo pietà mi facevano spesso anche un po' schifo. Così il poveraccio dal cognome Valdese, un contadino della collina di Torre Pellice, che prometteva sigarette ai miei compagni di scuola in cambio di appuntamenti. Me l'aveva confidato proprio uno di loro. Mi raccontavano pure di quando si recavano in gruppo in bicicletta a Pinerolo in una casa di tolleranza e si vantavano di ritornare indietro così deboli che a malapena riuscivano a reggere il manubrio. Ricevevo queste confidenze senza battere ciglio. Trovavo indegno che si facessero dare in anticipo le sigarette da quel poveretto e che, avutele dall'uomo che li aspettava dietro un cespuglio, anche qui si recavano in gruppo, lo inseguissero poi fino a casa sua con insulti e sassate. Lui fuggiva, invocando pietà, temeva che qualcuno dei familiari li sentisse. Quanto al servizio che avrebbero dovuto rendergli e che disonestamente gli negavano, non avevo ben compreso di che cosa si trattasse. Del resto, pur essendo incuriosita, non osavo chiarire la cosa. Il sesso era una gran porcheria, un toccarsi umidiccio e viscido, un espellere e ricevere liquidi, un farsi insultare e lapidare. Mi pareva che nulla di quanto accadeva a me ne facesse ancora parte. Non il piccolo trucco inventato da mia sorella che portava nel nostro linguaggio complice il nome tedesco da Schöne, qualcosa di bello, che dà gusto. Non il sussulto subitaneo nel mio grembo, mentre il ragazzo che mi inseguiva per gioco mi afferrava all'improvviso, e neppure le mie lunghissime fantasticherie. I miei sensi non dormivano, sognavano, trattenuti più ancora dall'intensità colma dei miei sogni che dai vincoli imposti dall'educazione e dai tempi. Talvolta si risvegliavano inaspettatamente al contatto caldo d'un braccio, anche sconosciuto, o all'occhiata improvvisa e diretta di qualcuno a cui non avevo badato mai. Ma ero troppo legata a esigenze assolute di bellezza, bellezza dell'atto, per seguire tali richiami. Nel mio diario si ripete per 3 anni la data del 20 giugno, in cui nel 43 mi innamorai di colui che trovo designato in seguito con la sola iniziale A. Ero stata innamorata prima e lo sarei stata dopo. Questo amore, però, ripetuto in 3 date, ebbe un'importanza particolare perché mi spinse per la prima volta a confrontarmi con me stessa. Era stata appunto l'occasione primaria per tenere il mio diario in modo continuato. Certo, detto così, esclude innanzitutto proprio lui, il mio A, precipitandolo nel mondo incorporeo dei miei fantasmi, e meno che mai riproduce il profumo intenso dell'aria invernale, un giorno splendente di dicembre in cui ci fermammo a mezzogiorno a riposarci al sole sopra il tetto di una baita appena affiorante dalla neve. Tuttavia quell'amore si staccò da me così completamente come asciuga la sabbia dopo un violento temporale d'estate. Non perché non fosse allora fortissimo e doloroso, lungo e non contraccambiato, ma perché non sciolse null'altro nel mio intimo se non le goffe e talora lucide righe del mio diario. Apparteneva ancora completamente al raccontare interiore che mi trattenne nell'adolescenza oltre i limiti consueti prima che incominciassi a scrivere. Era appunto l'odore dell'aria invernale, il suono d'un notturno di Chopin suonato da Giuseppe, più che un riconosciuto slancio dei sensi. E come tale, anch'esso mi riconduceva sempre a me stessa. Potrei forse dire che fu il primo, un po' frigido, tentativo di amarmi. Citavo, non è un amore. L'amore trova il proprio fine in un atto. È una nostalgia, e avere il mal di un essere come il mal di un paese e questo è senza rimedio. Il 5 giugno 1944 scrivevo nel mio diario: Roma è caduta e l'hanno difesa soldati tedeschi. Seguono altri 4 punti esclamativi e una citazione latina. Preparavo le opere complete di Orazio per l'esame di letteratura latina. E poi, dove sono gli italiani? Sui campi di battaglia in Africa, in Russia, in Grecia. Gli italiani d'Italia hanno tradito la loro patria. I morti solo sono stati italiani veri. 2 settimane dopo pedalavo con il mio amico Giorgio di ritorno da Pinerolo, dove eravamo andati in bicicletta a prendere i piani delle caserme della cittadina. Questi piani, in foglie abbastanza grandi, Giorgio se li era messi in tasca. Io pedalavo accanto a lui perché la mia presenza doveva farlo apparire più naturale ai vari posti di blocco che dovevamo attraversare. Lui aveva con sé il documento che lo esentava dal servizio militare come studente di teologia valdese. Non mi era chiaro perché mi trovassi là, però non me ne preoccupavo. Avevamo molte cose da dirci, Giorgio e io, e cercavo volentieri di attaccare un po' lite con lui. In casa eravamo troppo immersi nei nostri conflitti interni per concedere attenzione a quelli esterni. La nonna riteneva le guerre l'inutile e dannosa occupazione dei grandi uomini. L'antifascismo barzellettistico di mia madre mi irritava. Sapevo che era stata fascista nel 20, una delle prime tessere fasciste di Genova, dove allora insegnava, e le trovavo una certa fatuità. Ignoravo tutto della storia precedente dell'antifascismo. La nonna mi raccontava che il nonno svicolava in fretta quando incontrava un drappello di ragazzini fascisti, non solo perché aveva in abominio il fascismo, ma per non dover salutare quei marmocchi armati. Di lui la nonna mi aveva anche raccontato che quando, all'armistizio del 18, la donna di servizio si era precipitata in casa gridando che la guerra era finita, mentre tutti erano andati in piazza a festeggiare, lui non aveva voluto uscire. La guerra non l'aveva voluta e ora non intendeva celebrarne la sanguinosa vittoria. La nonna, naturalmente, era repubblicana. Io ero divisa tra il mio amore segreto per Pietro di Jugoslavia, fotografato in divisa bianca dietro il feretro del padre, e il disgusto per l'incomprensibile devozione di molti valdesi per i poco eleganti Savoia. Si vantavano persino che i reali preferissero le cameriere valdesi a tutte le altre. Il fascismo nelle sue consuetudini, sabato fascista, temi sul duce, esercitazioni ginniche, mi aveva accolta in Italia al suono stucchevole e diffuso di Faccetta Nera. Insieme mi avevano accolta tutta una serie di costumanze pure completamente nuove che io non distinguevo affatto come diverse da quelle fasciste. Tutte per me erano italiane. Però, siccome nel mondo valdese spiccavano ancora, bene o male, le feste del 17 febbraio e del 15 agosto, in cui una grande passeggiata collettiva celebrava il glorioso rimpatrio del 1689, tali ricorrenze finivano con l'essere per me molto più significative dell'importato 28 ottobre, la marcia su Roma. Però le manifestazioni di massa, soprattutto viste in film, piacevano ai miei gusti teatrali. L'autorità mi pareva ingiusta quanto più mi era vicina. Via via che si allontanava acquistava la dignità e l'autorevolezza di un'entità morale. Ero disposta a obbedire e consideravo quest'ubbidienza né più né meno che uno di quei prezzi che da sempre gli adulti mi facevano pagare perché io potessi, compiuto il dovere, ritirarmi in un cantuccio a farmi gli affari miei. Mi sentivo un po' colpevole, un po' vile, quando mi rifugiavo nei miei angoli. Ritenevo perciò atto di virtù farmi trascinare in una fiaccolata per la presa di Barcellona o andare alla dunata del sabato pomeriggio. Mussolini era dunque semplicemente lo Stato ai miei occhi. A lui fanfare e inchini. Uno Stato che aveva purtroppo la pancia e faceva molte smorfie. Smorfie che ogni tanto suscitavano risatine soffocate al cinema durante i giornali luce. Ciò mi disturbava, come le barzellette di mia madre, anche se gli italiani che camminavano con il passo dell'oca li trovavo in fondo al cuore ben ridicoli. Per l'ancor più lontano Hitler, provavo una specie di ripugnanza. I suoi discorsi strillati, il suo modo di essere tedesco non corrispondevano affatto a quello in cui ero stata educata io. Una volta, a 11 anni, vinsi per caso i Ludi Juveniles a Torre Pellice, con non ricordo più quale tema. Andai a ritirare il premio, il libro La storia di San Michele di Axel Munte, nella sede locale del fascio, mi pare nelle scuole elementari. Mi introdussero in una stanzetta spoglia, dove il giovane responsabile fascista di Torre Pellice doveva consegnarmi il libro. Era poco più che un ragazzo, pallido, dagli occhi azzurri chiarissimi sulla pelle bianca, noto per essere un fascista convinto. Presi il libro in mano e, scrutandomi in volto coi suoi occhi lontani, mi lodò brevemente per il tema. Poi mi chiese brusco quale fosse la mia fede fascista. Proprio così, la mia fede fascista. Ora, l'ho già detto, io tentavo in linea di massima di adeguarmi quando proprio non mi coglieva uno dei miei attacchi di collera fulminea. Cercai però disperatamente una risposta valida, ma non mi venne in mente nulla e tacqui. Lui allora alzò le spalle e serrò le labbra in una piega amara. Con la stessa piega amara, immagino, morì, maciullato dalla folla davanti a Porta Nuova, negli ultimi giorni di aprile del 45. Dell'incontro mi restò nella memoria una lieve sensazione di pietà, non di quella che mi sconvolgeva. Nei suoi stivali magri, egli era pur sempre, anche se lo avevo deluso, dalla parte dei più forti. La stessa lieve sensazione l'avevo provata anche per il vicepreside, timidissimo e colto, del liceo ginnasio Valdese, al quale avevo dovuto portare, secondo la legge, una dichiarazione di razza mista o di non arianità, non ricordo i termini, e che, rosso in volto e molto imbarazzato, credo fosse stato allievo del nonno, aveva dovuto, secondo la legge, riceverla. Patrizia Zappa-Mulas ha letto I padri lontani di Marina Jarr. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.